saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siamo a Minneapolis, nel mezzo di una delle ennesime manifestazioni per chiedere giustizia rispetto alla morte di George Floyd, assassinato da un poliziotto della città di Minnesota. I manifestanti ancora continuano a scendere in strada, a manifestare, a gridare le loro consegne, dicono chiama il suo nome, di il suo nome, George Floyd. Chiedono che anche gli altri tre poliziotti che stavano intorno all'assassino siano incriminati, arrestati. I manifestanti stanno anche chiedendo, sono contrari al tipo di incriminazione che è stata lanciata contro questo poliziotto, perché è stata lanciata un'incriminazione solo per omicidio involontario, per negligenza e per atto doloso, mentre loro vogliono un omicidio di primo o secondo grado, invece questo è un omicidio di terzo grado. Le manifestazioni sono 4-5 giorni che le manifestazioni continuano intorno a tutta la città. Ieri è arrivato, mentre nei primi giorni ci sono stati è stato dato fuoco a una stazione di polizia e sono state date fuoco anche altre strutture come la banca Wells Fargo. A partire da ieri è stato imposto il coprifuoco e con una grandissima e massiccia presenza della Guardia Nazionale e dell'Esercito, e ieri sera al scattare il coprifuoco è stata messa in atto un'operazione di repressione veramente molto molto forte. Non si sa quanta gente è stata arrestata, si parla di un centinaio di persone ma non è confermato. E la polizia ha aggredito i manifestanti con pallottole di gomma e con gas lacrimogeni. Ha aggredito anche tutte le truppe televisive presenti nella zona. La troupe di CNN è stata aggredita. Ha impedito la polizia attivamente l'esercizio del giornalismo, quindi praticamente non ci sono state immagini rispetto agli arresti massivi di ieri sera. Oggi comunque la gente ancora è in piazza, non si è stancata e probabilmente sfiderà anche oggi il coprifuoco che scatta, mi sembra, dalle 8 di sera. Un saluto a tutte e tutti da Minneapolis, negli Stati Uniti.